so da da da da e boro ya di bola ma so kuma aga yu som bolero lero e so da da da da e so po ya di bola ma so kuma aga yu som bolero lero e so da da da da e Amana, so boya di moyako. Amana, so boya di moyako.